l'Alghero, l'autovip. Mi avevo comprato l'autovip all'Alghero e avevo preso la patente con quella io. Quindi pensa a due. E poi vabbè, Alfette Quadrifoglioro, Twitch a 75, Twitch Park, dai, un po' di macchinette già ci sono passate. Beh, già, io ho avuto il 595 a marzo, facevo 130 nella salita di Marini. Ma 595 è fatta o ovvera? No, 595 penso che era la Giannini 595, no, dalla fabbrica penso che fosse, c'era il manubrietto, i contagiri all'interno, era tutto diverso dalla 500 normale. No, perché una cosa è dire 595 a Bata, un'altra cosa 500 Giannini, sono due cose totalmente diverse, perché l'Abate era una macchina sportiva, Giannini era una macchina lussuosa, una 500 curata meglio, rifinita meglio, c'era una strumentazione più completa, eccetera eccetera. L'Abate era tutt'altro motore, un motore preparato dall'Abate, eccetera eccetera, e valgono una barca di soldi quelle macchine. Giannini valgono lo stesso, però non a livello di Abate, perché ne hanno fatto talmente poche come numero e sono assolutamente ricercate. Chi ce l'ha ce la tiene benissimo, perché hanno valori da paura, perché sono macchine rare, assolutamente prestazionali, i motori hanno vinto un sacco di record mondiali, ci hanno come macchine nella categoria naturalmente, e chi ce l'ha, ne conosco ben pochi che ce l'hanno, che l'hanno avuta, sono macchine eccellenti. La Giannini niente da dire, tanto di cappello, grande macchina, però è come che c'è una versione lussuosa di una 500, curata meglio magari a livello di estetica, di cose, di finiture, motore leggermente, mi pare qualche cavallo in più li avranno tirato fuori, però la base era una 500 normale. Vai di nuovo Gianni e poi passerà a Gavito. Sì, ma la mia non era normale perché faceva le gare, capito? L'ho presa da uno che faceva le gare, io l'ho vista anche in un'officina, praticamente in un tabellone grande, c'era fotografata la mia macchina quando faceva le gare, c'era la targa, si vedeva bene, 52411 la targa era, non ricordo ancora, e era una bella macchina, ti dico che camminava, solo che consumava, faceva 9 al litro, no, era preparata roba. No, diciamo, ci credo, perché poi c'erano i kit Abate, ci mettevano la coppa Abate, pistoni maggiorati, un sacco di cose, però una cosa vera, la vera Abate a libretto, che ne hanno fatto talmente poche, sono mosche bianche, e ne sono rimaste talmente poche perché molte hanno corso, sono state distrutte, eccetera, eccetera. Come la 600 Abate, sono degli assegni circolari, una 600 Abate vale 60.000 euro se ce l'è originale, sono macchine, non ne parliamo cosa posso, poi c'è la 750, la 1000 Abate, 1000 record, ne hanno fatto una marea di Abate. L'Abate è come potrebbe essere la Ferrari dei poveri, diciamo, rapportata alle utilitarie, ha fatto delle cose da paura spettacolari. Ok, poi che macchina c'è, lo stesso che aveva delle prestazioni esorbitanti, a me è una macchina che mi è sempre piaciuta ed è un mio sogno, a parte il coupé, che quando me ne capita qualcuno a un prezzo ragionevole, quello è un investimento, il coupé è una bomba, non parliamo del 2000 turbo 5 cilindri, quello è stata la Fiat più veloce in assoluto che abbiamo mai costruito, mi piace da morire la Lancia Betta e Monte Carlo, non so se la conoscete. Sì, sono nuove, bella anche l'ex 19, se me l'avete detto, vabbè, se me l'avete detto non c'ero neanche io in radio. La produttore c'era il signor Suardi si chiama, che ha venduto un coupé 4.000 euro, il 2020 in valvole plus, il turbo plus, rosso, aveva 45.000 km, robè, 45.000 km, ascolta bene quello che ti sto dicendo, lo stava vendendo 8.000 euro, non è riuscito a venderlo perché quest'uomo navigava, e questa macchina era sempre in garage. Quando veniva la prendeva, l'unica pecca di questa macchina che fumava il sigaro lui, e c'aveva puzza di sigaro dentro. La prendeva, la poi c'aveva le chiavi, il lavagista, ascoltami bene questa cosa, prendeva il lavagista una volta, due volte al mese, la toglieva al garage, andava, gli dava, se la portava in lavaggio, la lavava e la portava in garage. Ecco qua cosa faceva con la macchina. Lui quando veniva aveva trovato la macchina pulita, sanificata e bella, la usava 15 giorni e ripartiva. Stava vendendo 8.000 euro, nessuno la voleva perché era una macchina che non piaceva, perché era rossa, e quello lì alla fine se l'ha presa, uno se l'ha presa, un tipo di Continente gliela lasciata, 3.500 è venuta, 4.200 euro il passaggio, il 2020 valvole plus con 45.000 km. Mi hai ascoltato quello che ti ho detto? Ma è comprata tu una 2000 Turbo Plus, cosa costa? Per poi c'avevano gli interni in pelle, erano super accessorate quelle, ma io la coupé, so tutta la storia, nel senso ho fatto tutti i corsi di aggiornamento, la costruzione, quella l'aveva disegnata Bangor, uno dei più grandi stilisti del mondo, era rivoluzionaria quella macchina, perché c'ha, se tu guardi nella storia della carrozzeria, dove ci sono, quando inventano qualcosa, c'è quella macchina lì, perché ha fatto quel cofano, che ti dico come lo chiama. Come si chiama, se tu leggi il vocabolario della carrozzeria, si chiama cofango, perché fa da cofano da parafango quella cosa lì, ha fatto delle cose rivoluzionarie. L'unico problema è che era marchiata Fiat, perché se quella macchina fosse marchiata Mercedes, BMW o qualche marco prestigioso tedesco, avrebbe fatto una diversa vita. Adesso meno male la gente l'ha capita, perché quella è una macchina da paura, bellissima, c'è una linea, pur essendo una macchina degli anni 2000 è stata fatta quella lì, poi tutte le versioni dal 1008 fino al 2000 5 cilindri, le ultime sono state, ed è una macchina che sta prendendo valutazioni allucinanti. Io ne ho una sotto mano, però non ho voglia di rivestirla, a un prezzo di 1800 euro, però è tutta da sistemare, sportelli di un colore, cioè è stata tutta da ricomporre, il motore dice che funziona, è stata spenta 2 anni fa, però sono a scatola chiusa. Però quella, chi prende una macchina, un coupé, cioè una macchina che è un investimento, come può essere una Fulvietta dell'epoca comprata oggi, c'ha solo da guadagnare, perché è una macchina micidiale. Sì, e questo, guarda, l'unica pazzia aveva fatto quest'uomo, questa macchina l'aveva portata a Monza, in pizza, si aveva fatto un giro a Monza, e quella lì era una macchina limitata a 250 km orari era limitata quella macchina lì. Lo vedi, ma a volte le cose non si sanno. Quello era nuovo, è sempre dormito in garage, era una macchina, guarda, non lo so. Ha preso quella macchina, gli è venuta a 4.000, dice, sono venuti a prenderla da fuori, l'ho data, gli è venuta a 4.200 col passaggio, gli ho data 45.800 km. Ha giurito, ecco, così è piaciuto. E vabbè. Dai, comunque, è andata. Sì, io le metto un attimino da mangiare, ai cani fuori, e rientro subito. Poi non ci dimentichiamo un'altra macchina, che questo amico mio scemo l'ha data, vabbè, lui è un collezionista, la Lancia Delta integrale. Lui ci aveva originale Abarth, preparata da Abarth, una versione stradale, però preparata per correre dall'Abarth ufficiale, una macchina da paura, la vuoi provare, ti spaventavi, cosa c'aveva l'accelerazione questa macchina, con rapporti corti da pista, una cosa spaventosa, l'ha data in cambio di un coso, di un tuo duetto osso di seppia, grande macchina, niente da dire, però tu vai a comprare adesso un integrale e poi dici cosa va. Sì, quella che c'aveva Fusat, aveva comprato tutti i figli, aveva comprato la Lancia normale a Federico e a Massimo aveva comprato la Lancia integrale e anche all'altro fratello lo stesso. E Federico qualche volta la prendeva, uscivamo con la Lancia del integrale che si può camminare. Era una macchina da paura. Addirittura c'era, non so che fine abbia fatto e quanto la posso aver venduta, la Lancia Delta 037 stradale, una macchina che hanno fatto in tutto mi sembra 500 esemplari in tutto il mondo, comprese quelle che hanno corso, che saranno state un centinaio. Questa era del proprietario della Lancia di Sassari, Vittorio Pisano, possiamo dire anche il nome. Dentro il telone, io quando l'ho vista ho detto non è possibile che ci sia questa macchina qua a Sassari. Dice che l'hanno venduta, non so quante centinaia di migliaia di euro possono aver venduto quella macchina. Una macchina stradale, se ci avrà avuto 3.000 km la notte. E ci credo. Ce n'erano anche 112 Abbat che camminava e hanno. Grandissima macchina, 112 Abbat, c'era un amico mio, più di uno, dai, più di un amico c'era quella macchina lì, come 112 Sport, 117 Sport, 70 capita, lo ricordo. Sì, a voi me lo ricordo. A 112 Abbat, quello 4 marce, camminava più di quello 6 marce. Se va 5 marce. Qua 5 marce. Vabbè, c'era quello 4 marce che camminava di più. No, a 112 era una macchina nervosa, però a livello di tenuta di strada era micidiale. 127 Mari, quando è uscito il 75 cavalli, l'ultima serie aveva 5 cavalli in più, però era più nervosa, a 112 riuscivi a entrare più veloce. Infatti quando facevano le gare in salita, cose così, usavano sempre il 112 perché era più corto e impostavi meglio le curve. Io ho avuto l'appunto 75 cavalli, 16 valvole, chi si camminava e consumava poco. Tu l'hai avuto? Sì. L'ho avuto anch'io, la LX, cioè la versione lussuosa, grande macchina l'appunto. E ti posso dire, l'appunto vecchio modello era più bella della seconda serie 188, quella di uscita dal 99 in più, anche se magari esteticamente, internamente magari era più appariscente, cioè, però lì di linea a me mi piaceva di più. L'ho avuto la grande, la mia grande punto, l'appunto 75, però era un po' sospetto a fondo, consumava anche cosa amara, era il 1242 doppia accensione, perché poi facevano la 60 1242 che consumava molto ma molto di meno, le hanno messo le doppie bobine e consumava lo doppio del coso dell'altra. No, quello che ho avuto io consumava pochissimo, poi ho avuto un incidente sulla Sassoli di Midriazzi, l'avevo aggiustata, ci avevo messo anche un po' di sudore e poi l'ho versata perché non mi fidavo più, l'avevano aggiustata, la Fiat, tutto quanto, l'avevano cambiato perché ho detto che le mani di torsione non le aveva toccate, che era solo la mia, era quella che gliel'ho cambiato, che era sicura la macchina perché c'era un amico che lavorava lì, però non mi sono più fidato. Una volta che c'era l'incidente così, questo qui mi ha girato di colpo una strada di campagna, è uscito di colpo e io stavo camminando, la verità era 140, ho fatto la ruota quadrata, frenata. No, ma era una grande macchina, appunto quando è uscita, come la 1, era la successiva della 1, ma era un altro pianeta come abitabilità, rifinitura, perché la 1 era una grande macchina, però era una scatoletta, le ruote da 13, 135 e 13 aveva la versione 1000, le ruote della banda, va via, quella era già un pochettino più diciamo sospensioni di pregio, perché la 1 era di buono, che c'aveva leggera, ma se ti chiudi con la 1 eri morto, se ti sbattevi a 40 km orari dovevi andare direttamente a metterti d'accordo con l'agenzia funebre per farti seppellire, perché eri morto, non aveva né cellula di sopravvivenza, mentre la appunto quando è uscita erano già di nuova generazione, era un prodotto diciamo all'epoca all'avanguardia come protezione per l'abitacolo, dai. Poi è cambiato tutto, le leggi hanno migliorato tantissimo, ma prima se ti sbattevi con una 1 ti facevi male, con 112, quando fatti i crash test esistevano, ma non c'era nessuna normativa che ti obbligava a rispettarli, tutte li facevi per farti pubblicità e poi facevano le Volvo che all'epoca erano le più sicure, però adesso se non fai un prodotto con quei parametri minimi non ti fanno costruire la macchina. E le Mercedes erano sicure anche come macchina? Dipende, io ti faccio le prove Roncap, le nuove che hanno fatto, che prima erano a 50 km aria contro barriera fissa, adesso le hanno portate a 60 km aria. Guardati chi ha preso le 5 stelle, ci sono dei Mercedes che non sono arrivati neanche a 4. Davvero? Io sapevo che la Mercedes era molto sicura come macchina. E vabbè, sicura sempre nei limiti del possibile. Vabbè, prima le macchine avevano la lamiera forte, però ti fa facevi male, adesso la lamiera si rompe prima la macchina, però ti protegge di più. Esatto. Allora adesso prima ti sbattevi con un 112 e ti facevi male, tu vedevi la macchina, cavolo, ciao Gabi, mi è rientrato. 112 magari non si faceva niente la macchina, però vedevi il montante della capota piegati in due, scaricavi tutto il colpo all'interno dell'abitacolo. Adesso sono, c'è la cellula di sopravvivenza in acciaio ad alta resistenza, tutto il muso si butta in terra, però fino a un certo punto ti salvi, diciamo dopo un certo punto naturalmente se ti sbatti a 100 all'ora non esiste macchina che ti permette di salvarti, c'hai tanti sistemi di cose, di contenimento, pretensionatori, airbag, frontali, laterali, ginocchia, c'è di tutto e di più, per dire era inconcepibile sbatterti, cioè avere quelle cose all'epoca. E ti posso dire, noi abbiamo dei prodotti italiani che hanno preso le 5 stelle, la Giulietta è una delle poche macchine che ha preso 5 stelle, ci sono dei Mercedes che hanno preso, e una macchina che ha preso un sacco di punti è la Mazda, infatti sono rimasto a bocca aperta anche io. E il discorso è che ci sono troppi parametri adesso, prima ti sbattevi al muro e facevano la deformazione, guardavano la deformazione, mettevano i manichini e controllavano quanto sia stata la accelerazione eccetera eccetera. Adesso prima di tutto devi stare attento all'abitacolo, protezione dei passeggeri, dopodiché protezione dei pedoni, protezione dei coso, la prova del coso, del palo, ti fanno sbattere un palo laterale, ci sono un sacco di parametri per cui costruire una macchina e arrivare a 5 stelle non è semplice. E c'è la Giulia che è arrivata tra le prime al mondo come valutazione, la massima l'ha presa una Mazda, infatti sono rimasto a bocca aperta. Audi che Audi, BMW che BMW non hanno preso valori come ti aspettavi, la Volvo ha avuto valori eccellenti, però macchine che magari ti aspettavi chissà che cosa, normalmente uno dice Mercedes e BMW sono avanguardia per la sicurezza, fino a un certo punto hanno preso risultati eccellenti ma non top come altri marchi magari meno conosciuti. La Mazda, forse noi la conosciamo poco come macchina, è molto sicura. Avanti Gianni, lo sai qual è sempre stato il mio sogno, ma il mio sogno è non l'ho mai trovata buona, perché la verità la volevo io prima della Bravo, prima di quella che adesso avevo il Mercedes, avevo il classe A, il classe A 180, non la prima serie del classe A ma la seconda, e ho dovuto prendere quella il mio più grande errore che ho fatto, che è stato il mio più grande errore. Però già la macchina che stavo prendendo io, che volevo prendere io, che poi per esigenze familiari, diciamo perché la mia moglie non piaceva, era il Volvo, perché a me le Volvo sono sempre piaciute, tutti i modelli, dal 740 al 760, diciamo dei tempi di un po' di anni fa, e volevo prendere il V70 che mi piaceva e mi piace da morire. Poi c'è il V40 che è bello lo stesso, sono macchine semplici, sono quasi crude, se tu li vedi gli interni sono molto, non sono come può essere un BMW, un Mercedes, sono abbastanza semplici, non hanno questa grandissima cosa, ma riguardo a motori e sospensioni e carrozzeria, secondo il mio parere il Volvo è una macchina che merita, me li prendi già? Io l'ho anche guidato perché ce l'aveva mio cognato, c'aveva una specie di cosa sotto le mani, tu adesso non mi ricordo come si chiama, lo portavi su e prendeva velocità, overdrive, esatto, c'aveva quello lì, camminava un bebè con la macchina, che c'era mio cognato, solo che fumano con le macchine, hanno quel vizio lì che fumano molto. Questo fumare non lo so, perché guarda, vuol dire che avevano qualcosa, perché il Volvo, guarda, col Volvo non sbagli, cioè secondo me, per quanto me ne fosse intendere io, perché di macchine ne ho avuto, tu considera che io ho avuto, per quanto possa essere giovane, faccio vedere il mio storico di autovetture, ho avuto 4 Lancia e 11 Alfa Romeo, quindi ne ho avuto, quindi ho avuto quasi tutte le serie del quadrifoglio verde, e le lancia lo stesso le ho avute. L'unico aborto che ho avuto è questo classe A, che è stato uno schifo. Nuova seconda mano, ma nuovo, però per fare un qualsiasi cosa, cinghia dei servizi, dovevi abbassare appena il motore in avviamento, butta il motore a terra, quella butta il motore a terra, porca miseria, pigliato, boh, regalato, non niente, avevo venduto 1000 euro, è una marea di pezzi di ricambio, perché avevo detto, come trovavo i pezzi me li prendevo, ho detto insomma che si rompa queste cose qua, e alla fine l'abbiamo diciamo quasi regalata, e riprenderò bene. Allora, a me non mi ha detto la verità, tu che l'hai avuta, solo ti avrei detto, se mi avessi detto il contrario ti avrei detto lascia perdere che non è così. Allora, la Mercedes classe è stata la peggiore Mercedes costruita nell'Asturia. Se quella macchina l'avesse costruita la Fiat, probabilmente nessuno avrebbe mai più comprato macchine Fiat. Quando hanno fatto la prova dimostrativa, si chiama prova dell'Alce, quando hanno chiamato i giornalisti di tutte le riviste principali del mondo e gli hanno fatto fare il giro a questa macchina, hanno fatto la prova dell'Alce, che consiste camminare a 70 all'ora, ti mettono un birillo e tu devi girare di colpo questo birillo, si sono capottati, allora hanno ritirato tutte le macchine prima di consegnarle, le hanno messo di serie LSP, quando la macchina vede che si sta per capottare ti toglie potenza, e quello è stato il più grande bidone mai costruito nella storia, forse di tutte le macchine, di tutti i marchi, perché nessuna macchina ha fatto una figura di merda così come l'ha fatta, scusate il termine, la Mercedes. Adesso l'SP l'ha dovuto mettere di serie, perché se no non si poteva guidare, era pericolosa quella macchina lì, grandissimi problemi di sospensioni, continuamente devi cambiare bracci oscillanti, biellette eccetera eccetera, qualunque manutenzione devi fare, non ne parliamo, la difficoltà di motori di avviamento, compressori di aria condizionata, alternatura, era un bidone di macchina. Adesso hanno fatto la classe B, diciamo, progetti totalmente nuovi e non, diciamo, hanno migliorato tantissimo, perché si sono rovinati la reputazione. Proprio stamattina, parlando di macchine, non so se la conoscete, abbiamo consegnato la S90, che è un Audi macchiata Volvo, una macchina enorme del 2020, bellissima dentro, c'è una marea di sistemi elettronici di controllo, la guida assistita, una macchina grandissima, come rifiniture, come motore, c'ha 200 cavalli, motore la potenza spaventosa, un diesel di quelle cose, silenziosissima, super rifinita, è una grandissima. L'unica cosa che a me non piace delle Volvo, questi cavolo di fanalini che non riescono a dargli una linea moderna, sono ancora di 50 anni fa, ti vedi dietro la coda lateralmente è un Audi A6 bellissima, poi te la guardi dietro di coda e ti vedi questi fanalini osceni con una scritta Volvo nel cofano di dietro per tutta la lunghezza del coso del cofano Volvo, quelle cose lì purtroppo esteticamente se la curassero un po' meglio, però ci togliamo il cappello davanti alla Volvo, anche se la Volvo adesso è stata acquistata dai cinesi, anche se c'è in mezzo la Ford in mezzo eccetera eccetera, i motori sono di origine Ford, sino agli anni 2000, anzi un po' prima, sino agli anni 90 il punto di riferimento di tutte le case automobilistiche era la Volvo, andavano a smontare, io ho partecipato quando si andava in stabilimenti dove ci sono gli istituti di ricerca, prendevano le macchine e le smontavano tutti, da questi ingegneri all'epoca sino agli anni 90 la migliore macchina costruita al mondo erano le Volvo, non c'era per nessuno, poi è iniziata la Toyota a fare dei prodotti buoni, che adesso la Toyota sta perdendo un sacco di colpi, aveva fatto degli ottimi prodotti, però all'epoca la Volvo, non per la sicurezza, come discorso costruttivo, qualità costruttiva di particolari, non parliamo di rifiniture, parliamo di materiali costruttivi, era il numero uno sino agli anni 90, adesso ha perso qualcosa, l'hanno perché era fallita, due o tre volte ha cambiato proprietario, adesso l'hanno ripresa in mano i cinesi, e vi posso dire la S90 è una grandissima macchina, ci vi dato gli occhi il cappello quando la vediamo. Riprendi già. E io l'ho guidato, ti ripeto, perché ce l'aveva mio cognato, l'unica cosa che mi aveva fatto di difetto era il motorino delle dell'altro metro c'era rotto, che mi ricordo io, e poi per il resto era una bellissima macchina, uno salotto guidato. Ma voi dovete vedere il sistema di accensione di questa macchina, è allucinante, cioè, non ha, tutti hanno il pulsante, la chiave, questo nel piantone dove c'è il freno a mano, perché c'è il doppio freno a mano, questa macchina la puoi far funzionare in automatico oppure lo gestisci tu e te lo fai manualmente, c'ha due freni a mano, non avevo mai visto un sistema del genere, poi vabbè tutti i sistemi di controllo, c'è una telecamera, sembra una televisione, talmente si vede bene, perfetto, non dico che sia un 4K, però è adatta a definizione, proprio mai vista una macchina con una retrocamera con una qualità visiva da paura, sembravi guardando una camera diciamo di un cellulare, quando guardi con la videocamera del cellulare, talmente era buona. Questo affare c'è una specie di pomellino argentato, diciamo, cromato, che lo ruoti, tipo un potenziometro, la metti in moto, è una cosa bellissima, veramente di lusso. E poi non parliamo di tutte le prese d'aria, tutte le bocchette, sembri una macchina di un'altra categoria, non sembra neanche una media, medio alto rango, sembra una macchina, per dire, a livelli di coso, serie 7 BMW, classe S Mercedes, è una macchina, mamma mia. Poi devi vedere cosa c'è di impianto audio, Gavi, c'è un subwoofer dietro, non è baule, sarà a 30 il cono, però è fatto in un modo tutto particolare, che lavora e non so se c'è qualche condotto o qualcosa, però è aperto, non è il classico subwoofer chiuso dentro, e vedi questo cono molto stretto, non l'avevo mai visto sinceramente, e a fianco la batteria dietro, c'è una batteria, c'ha dei cavi mai visti così grossi, cioè di dimensioni esageratamente grandi, e poi non parliamo tutte le i marchingegni che c'ha di sistemi di navigazione, però cose c'è il quattro comandi, è un televisore, non ha nessuno strumento analogico, tutto digitale, con tutto, è come tu vedi un display, un monitor, e c'è tutto, vabbè li avevo già visti sul Mercedes questi sistemi lì, però questo, su questo tipo di macchina non lo trovi facilmente, veramente una macchina spettacolare, un motore, se lo vedi è una cosa aeronautica, sembra di nuovo Gavi. Beh, immagino che abbia, che sia al top dell'innovazione. A me Volvo, guarda, mi hanno sempre fatto uscire di testa. Sempre. Tutti quanti mi dicono, ma quando abbiamo questi discorsi, ma cosa ci trovi di bello, cosa ci trovi di bello? A me la Volvo mi affascina, mi piace, non c'è niente da fare. Mi piace. E poi io sono rimasto stupito da un'altra macchina, Robert, che tu adesso mi dirai è vero, da una macchinetta, la Toyota Yaris, il 4 cilindri, è un gioiellino quella macchina, non il 3 cilindri, no il 4, 4 cilindri è... Secondo me è una macchinetta riuscita, va ad aria quella macchina, non come consumi, no? Poi sembra piccola, ma è dentro, è spaziosa, dentro il colfa non ne ha, però una, diciamo, è un'ottima utilitaria, 4 cilindri, quelle macchine fanno 300.000 km se la tiri bene, senza peccare niente. E a me chi non mi è mai piaciuto come marchio, è Ford, lasciamo perdere motori spinti, motori di turbobenzina sono stati fatti dalla Fiesta, della Escort, anche dalla Escort LSRS 1006, queste cose qua, e Saab, a me Saab non mi ha mai convinto, lasciamo perdere il 9.3, quelli turbobenzina, quella diciamo esteticamente brutta, che non è brutta, a me piace tanto, però queste 9.3 aereo, queste 2002, il 2002 turbo diesel con motore Opel, cioè di quella anche lì adesso se ti si rompe una classica fesseria, cosa ne so, il rocchetto della chiave, quella macchina c'è di buttare, non lo trovi, non si trova, non devi buttare via tutto, è un casino. E ti ripeto, a me l'utilitaria che mi ha colpito molto è la Toyota Yaris, il 4 cilindri, riprendi roba. Allora, stai parlando delle Toyota anni 2000 o le Toyota nuove? No, 2000, anni 2000, 2000. 2003-2004. Sì, no, niente da eccepire, a parte, vabbè, discorsi strutturali di caso di incidente erano ancora un po' arretrate, però come equilibrio di macchine erano ottime macchine, ben costruite. La Saab 9000, diciamo, la Saab ti deve piacere, è un marchio particolare, come la Volvo a te piaceva. La Saab era, la Saab 9000 era costituito, come si chiama joint venture tra Fiat, Saab e Lancia, sulla stessa scocca, sullo stesso piano avevano fatto la Lancia tema, la croma e la Saab 9000. Infatti se tu guardavi gli sportelli erano identici, potevano cambiare le manine e qualche particolare, però il pianale, lo stesso piano costruttivo, erano identiche e montavano gli stessi motori. La Saab 9000 era una grandissima macchina, era l'equivalente della croma della Fiat e della Lancia tema della Lancia. Poi si sono un po' sfoltate perché poi la Saab ha lasciato perdere, perché la Saab fa aeroplani più che altro, cercava varie, le macchine erano un pochettino, ricordavano la linea degli aerei, però all'inizio forse potevano piacere, poi alla fine, come hai detto tu, l'aero hanno fatto, diciamo, non dico brutte figure, però la gente le ha abbandonate, non trovi più niente con le macchine. Ce l'aveva un'amica carissima di famiglia, questa qua alla fine era dovuta dare, regalare, rottamare, perché non si trovava più niente, rompavi un pezzo e non esisteva più il marchio. Infatti io quando vedo gente che compra quelle macchine lì, o che compri Suzuki, perché Suzuki è una buona macchina, però dico, cosa te ne fai di quel tipo di macchina? Di quei marchi, anche la Mazda, la grande macchina, cosa te ne fai se non hai assistenza, ti si rompe qualcosa? Infatti io dico, quando comprate un marchio dove c'è assistenza, reperibilità dei cambi e soprattutto qualcuno che le sappia riparare, perché secondo che macchine ti capitano, tipo con le Yankel della Mazda, quel sistema a rotarti, lì chi te le aggiusta quelle macchine lì? Lasciamo perdere. Io di tutte quelle che ho visto, per esperienza personale, le migliori macchine attualmente a livello qualitativo in assoluto non c'hanno antagonisti, anche se vuol dire la Volvo di oggi, sono rimasto stupito, le Audi numero uno come qualità costruttiva, come qualità di motori, prestazioni, rapporto consumi e prestazioni, ancora un peluzzino meglio è la cosa, la BMW. La Mercedes ha preso un sacco di colpi e sta cercando di riguadagnarli con i prodotti nuovi, parliamo di macchine di alto rango. Come tecnologia la Mercedes ogni tanto tira fuori ogni 10 anni un prodotto all'avanguardia, però la BMW è più veloce a togliere queste avanguardie, per cui ti tira dei motori da paura, triturbo, ho visto anche motori triturbo, mi sono capitati cose da paura che ti spaventi, dalla potenza litro, rapporto potenza litro di cilindrata, da paura. Io comprando una macchina, volendo spendere soldi senza guardare il prezzo, senza salire Lamborghini, Ferrari eccetera, una berlina numero uno attualmente è l'Audi, grandissima macchina costruttiva, qualche problema sui cambi automatici, però una macchina eccellente, diciamo. Se vuoi qualcosina di meglio sul livello motoristico, ma un peluzzino deve andare su BMW. Avanti Gianni. Vabbè, vanno troppo su per me. Troppi consumi, troppe spese con quella macchina. Io mi accontento della Fiat. Assolutamente, io consiglio Fiat. Parliamo di macchine comuni, a livello utilitario siamo un leader mondiale e non ce n'è per nessuno, nel senso la Panda sarà vincere da tutte le parti, no, non è un antagonista della Panda. Adesso uscirà il modello nuovo, credo tra un paio di anni, e riprenderà di nuovo da capo, e incontrerà stata regina del mercato da sempre, una grande macchina. Se è presente, la Fiat in Germania sta vendendo tantissimo, stranamente, è il prodotto più venduto delle macchine di importazione, ha battuto la Renault, che prima la Renault era quella che faceva sempre qualcosa di più della Fiat come importazione. In Brasile la Fiat è incontrastata, in Turchia è incontrastata, in Italia è incontrastata, ci sono dei mercati francesi dove ancora non riesce a entrare, perché lì sono nazionalisti, lì se ti fai una bicicletta macchiata francese preferisco comprarci la bicicletta e tu magari li fai vedere il Ferrari allo stesso prezzo, sono troppo nazionalisti. I tedeschi, al contrario dei francesi, sono molto più intelligenti e guardano anche la qualità dei prodotti. La Giulia sta spopolando in Germania, pur avendo degli antagonisti tipo BMW, che sono delle grandi macchine, però la Giulia ne stanno vendendo a marea, grandissima macchina, prestazioni da paura, e ha crepato anche le cosiddette macchine di riferimento tedesche. Ti riprendi, Gavi? Sì, l'ho letto questa cosa della Giulia, l'ho letto. Beh, la Giulia non è brutta, attenzione, la Giulia è ormai, cioè adesso è la miraglia, come però è un'italiana adesso. questo diciamo che è un'italiana doc. È un'italiana doc la Giulia, è bella, bella, bella, bella. Ma produttore ce n'è qualcuna, quando la vedo mi giro perché, ripeto, è bella, è bella. A me Roberto, io ti dico una cosa, a me l'Audi, è una macchina che non è mai piaciuta, ce l'ha mia madre l'Audi all'A3 nuova, e mio padre, mio padre, sì, tutto quello che vuoi, però non lo so, non è, diciamo che è tutta un'altra macchina da quella che ho io, però per prendere un Audi io preferisco, vado sempre sulla BMW e sulla Volkswagen. No, tu dici, ma la Volkswagen è la stessa macchina, non lo so, è proprio la linea a me dell'Audi, grande motore, tutto quello che vuoi, grande motore, affidabilità, fai in quella macchina lì, non senti una vibrazione, non senti niente, però a me non mi ha mai convinto, mai. Io per prendere una io prendo un BMW o prendo un Volvo. No, a me da quell'idea non mi togli, non mi sturti, perché guarda, io BMW non l'ho mai avuto, però ho molti amici che ce l'hanno, molti conoscenti che hanno il BMW, e mi piace, però in primis Volvo. A me quando dico ti piace, sì, bella, bella, però, e mi dicono, però tu sei per il Volvo, e io sono per il Volvo, mi dispiace, ma io dovendo di comprare una macchina, dovendo spendere robe, anche prendendo un usato, dovendo spendere 20-25 mila euro, 20 mila euro che non li spenderò mai, però avendo la possibilità di spendere quei soldi lì, andrei più sul Volvo più che un BMW, e sull'Audi non se ne parla proprio, andrei più su un marchio del genere, riprenderò bene. Sì, no, Volvo, ultime macchine, niente da dire, però io parlavo di qualità costruttiva, qualità di materiali, e Volvo, ottima, niente da dire a me, però ti do, se uno devo dare 9, l'altro gli do 10. BMW lo stesso 9, Mercedes 8,5, anche se sta qualcosina migliorando, però a livello motoristico BMW ci togliamo il cappello, ogni tanto ne tira fuori qualcosa di nuovo, motori da paura, però l'Audi ti posso dire che trovate tutto e seduto, ma anche macchine di altissimo pregio, però Audi, la Rari la senti più sportiva, più rigida, più coso, più tenuta di strada, il Mercedes è più confortevole, te lo senti più salottiero, nel senso sei in una poltrona, tutto quanto, però Audi non lo so, a me piacciono la serie di Audi A5, A6, vabbè non dico A8, quelle lasciamolo per A7, sono bellissime, hanno delle linee, uno essendo di nuove, nel senso prodotti disegnati già qualche anno, però c'hanno una cosa sempre attuale, diciamo non invecchiano come la Volvo, devo dire, l'unica cosa attraverso la Volvo, a me non piacciono le fanalerie, soprattutto dietro, avanti Mario è bello, si è cagata la Volvo con questa macchina che è spettacolare, per questi fanalini dietro, brutti, ingombranti, sembrano quelli del SUV, che rimangono alti, stretti, tipo è presente un prisma, un triangolo fatto così verso l'alto, larghi sotto e stretti, cioè non hanno una linea, se tu ti guardi la Giulia, per dire, hanno una bella linea accattivante, ti guardi un BMW dietro, i fanalini sono pura, loro forse tu mi dirai, perché la politica loro è la sicurezza, magari l'hanno fatta per questione di visibilità, non lo so, per qualche motivo, per tenere un marchio, diciamo un'immagine di marchio, come fa lo stesso l'Alfa con lo scudetto davanti, cercano di rimanere sempre con quello stile lì, come fa un po' la griglia della Mercedes, sempre queste griglie grandi davanti, però sinceramente di lì qualche punto glielo tolgo di bellezza per i miei gusti, però ripeto, l'S90 non la conoscevo ed è una grande macchina, proprio veramente bella, fatta bene, molto silenziosa, un motore esageratamente potente, silenzioso, ma veramente una grande macchina. Gianni, avanti a te. E dai, io vi lascio da che tardi. Io sono in un condominio, non ve lo disturbare. Ci sentiamo ragazzi, buonanotte a tutti, mi ha fatto piacere questo corso tranquillo e pacifico, dai, come lo voglio io. Va bene, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Gianni, buonanotte anche a te, anche io tra poco vado, dai, anche se domani non lavoro, però devo fare cosa? Domani mattina, vai Gavi. E a Gianni, Gianni ciao ciao ciao, buonanotte, buonanotte, grazie del QSO, ci sentiamo tutto alle prossime, a domani se coincide, a domani se coincide, ma io domani sera già sono in radio, dai, domani sono in radio, e diciamo che robe, la Volvo ha mantenuto sempre quello stile funebre, quello stile funebre che è lì. Ma tu te l'hai così la Polar, che poi è uscita la V40, V60, V90, la vecchia Polar, che le usavano molti nei servizi perché ci caricavi quello che volevi, talmente era grande. Lui aveva ricordato, lui in un 7, in un Volvo, in un 760, in quella grande, il 2000 turbo benzina, abbiamo caricato i tralicci da 2,50 metri, sono stati 9 tralicci. 9, vabbè. Sì, lo so, all'epoca le Volvo erano, tutti le compravano le Station Wagon, perché poi c'erano con le berlinette piccoline, erano bruttine, sembravano le macchine giapponesi degli anni 70 con le bruttine esteticamente. Poi c'era la Volvo con la coupé, non so se te la ricordi, particolare, che c'aveva i fari a scomparsa che si sollevavano davanti, non mi ricordo se si chiamava la C80 o C40, adesso me lo ricordo, che c'aveva i fari, c'aveva un cofano di dietro, un portellone in vetro grande, era una macchina sportiva, ne hanno fatto qualcuno, c'aveva un amico mio con la macchina lì, e c'aveva davanti i fari a scomparsa che si aprivano. Il 480, il Volvo 480, guarda scusami se ho scoppiato a ridere poco fa del ricordo che ho avuto, però era una cosa assurda, era una cosa assurda, assurda, scusa se ho scoppiato a ridere, ma era, mi sono ricordato della scena perché c'erano 9 tralicci dentro e 9 mezze tralicci lascia perdere. E tanto c'era la Bogulonga, la 740, la 760, ma poi la facevano turbo benzina, un consumo peggio di una portaerei. 2100 turbo benzina era, 2100 turbo benzina. Cioè, i tralicci da 250 in cofano usciva, ma era lunga, era, in pratica tu lasciavi il cofano aperto, no? E non sporgevano, mi segui, perché erano, perché quando abbiamo abbassato il cofano l'abbiamo cinghiato al gancio del traino, era lungo quanto il tralicci era lungo quanto il cofano aperto, mi segui, cioè assurda, per lui è dentro il cofano, no vabbè, lui qua è assurda, quella macchina ha girato, paura, robe, no, a me diciamo che i vecchi modelli sapevano molto di funebre, era un'auto molto funebre, infatti noi mettevamo la croce anche sulla capotta a volte, una croce in cartone, però niente, ma come motore, come conforto, è una macchina molto confortevole, adesso a parte gli scherzi, non hanno mai dato problemi di avantreno, di niente, non niente. Io ho il Mercedes, ogni 2000 km dovevo portarla a fare la convergenza, capito? Equilibratura e convergenza, perché si mangiava le gomme, mi segui? C'era un casino, io ogni 3 mesi dovevo cambiare le gomme davanti. È un problema con la macchina, alla fine tu la sbatto al muro o la regalo. No, è stato un più grande bidone forse nella storia, uno dei più grandi bidoni della storia della Mercedes sicuro, però della storia automobilistica mondiale, una delle peggiori macchine nata male, cioè ti può capitare la Duna, dice è brutta, non piace a nessuno, l'Arna non piace a nessuno, però tutti i problemi che ha avuto con la macchina, nessuna macchina al mondo ha avuto i problemi che ha avuto la classe A, parliamo la prima serie, soprattutto la seconda l'hanno un po' riutilizzata, ma la base, il pianale era sempre quello, non è cambiato. Mentre la nuova classe A, quella che è uscita già da 2014-2015, è tutt'altra macchina, grande macchina a livello abitativo, con rifiniture eccetera, ma le prime erano una marea di problemi con le maniglie, poi a tirare c'aveva, ma lo sai come si spaccavano le serrature? E dove comprarti tutto il blocco di dietro costava una cifra da paura. Infatti ne ho amici che se ne sono disfatti, e uno la sta vendendo adesso, che si è comprata adesso la Lancia a Petra, un'occasione, grande macchina, lo stesso quella lì, però non è poi la vita di questo classe A, tutti i problemi che gli ha creato, ma non solo lui, tutti quelli che conosco hanno avuto problemi, ma anche problemi di corrosione, normalmente negli anni recenti corrosione quasi niente, a parte la Dacia che fa schifo, come costruzione di lamiere, diciamo. Ho visto un sacco di Mercedes, tutti frati, che marci. Sì, proprio, no, vabbè, la Dacia è proprio una schifezza, quelle Dacia Sandero, quelle Dacia, ma per carità, ma io non ho capito come fanno a comprare una macchina del genere, guarda, dicono che l'arma era brutta, ma la Dacia, secondo me, la Dacia, secondo me, la sorpassa, ma io non so come fa a comprare una macchina del genere, la Dacia Sandero, a carità, io non ho capito, no, a me quella macchina, a me mi stava rovinando quella macchina, a me mi stava rovinando sia il fegato e sia la tasca, perché ne avevo, aggiustavi una cosa e la settimana dopo ne avevo un'altra, non lo so, prendeva, poi ultimamente, poi l'ultima goccia ha fatto traboccare il vaso e è stata la luce della retromarcia, non metteva la retromarcia, non si accendeva la luce, la porto al meccanico, guarda, non va la retromarcia, l'ha controllata la lampadina, certo l'ho controllata, e allora ti avevo buttato un pizza, bisogna togliere il cambio perché c'è il sensore, è stato fermati, adesso ti faccio vedere una cosa, l'ho data. Detto bene, se devi smontare il cambio, il sensore di retromarcia c'è all'interno del cambio, capitato da poco, qualcuno si mette l'interruttore separato, all'antica, con l'interruttore si riesce manualmente a retromarcia, perché ti sto dicendo, allora Maria, non parliamo di sospensione, hai detto bene, ogni 2000 km devi correggere, perché si smoccolano le tessine del braccetto, eccetera, eccetera, lasciamo per. È venuta l'altro giorno in officina una macchina che non conoscevo, cinese, anche se il marchio è pluridecorato inglese, la MG, un SUV della MG che costa 25.000 euro, una macchina 1.500 turbo, pluriaccessoriata a tutti gli option possibili e immaginabili, con telecamere, sensori, manasurti, tutte cose varie, ti posso dire rifinita bene, perché per quel prezzo un SUV non lo compri da nessuna parte, full option a cerchi in lega ruote da 19, eccetera, eccetera. Quando ho messo la retromarcia, il cruscotto bellissimo, guarda, i sedili avvolgenti, con il poggiatezza tipo macchine tipo Recaro con il buco dietro, belli, proprio dentro ti siedi, tutto bello, metto la retromarcia e mi appare questa immagine, c'è presente i tuoi vecchi televisori in bianco e nero, quelli che non si vedono, tutto sfocato, però a colori, una roletta, cos'è questa cosa? Cioè non riuscivo a vedere quello che c'era dietro, infatti ha detto si sono fregati per la telecamera, però ha aperto il motore, bellino, perché è piccolino, c'è un sacco di possibilità di lavorare, esteticamente anche ordinato. Però bisogna vederlo poi nel tempo questa macchina. Come rifiniture ti posso dire, gli do un buon voto, una bella macchina MG, infatti te l'avevo riuscita questa, mi sono informato su internet che non la conoscevo, però come fai tu a comprarti un marchio del genere, chi te la giusta, se ti si rompe qualcosa, io sono rimasto stupito, ma costa poco, lo so che costa poco, però se ti si fa fare anche il pezzo meccanico, cosa rimane, 2 mesi di mutata in concessionario? No, costa poco, magari cosa ne so, costa 20.000 euro e va a cambiare l'avanti, non ti va a 10.000 euro a falli, ma per carità, ma io non so come fanno queste persone a comprare macchine del genere. Io mi sono promesso che io d'ora in poi comprerò, guarda, se devo comprare macchine tranquille, Fiat, basta, finito, no? A tassa, diviso tutti i mezzi, vai e te lo truffi, no, basta, con, ti ripeto, io con quel Mercedes l'ho preso uno spavento brutto, ma brutto, quindi tutte parlavano bene, no, prendila, che bella, vedrai che, vedrai chi, ogni aia stemma, robe, ma già stemmi, una via giudizio, ho fatto una tappurata, e ci davate lì, tra l'altro, di vetri, ho tirato una sbattuta allo sportello, ha fatto boom, secondo me si è incassato qualcosa, si è insaccata la capota, perché gli ho tirato talmente forte, e tu gli scoppiava qualche vetro, wow, no, non ne potevo più, poi, vabbè, non ti parlo di avantrei, i motori in aria condizionata, di tutto, non ci siamo fatti mancare niente con quella merda, scusando la parola. Ha detto bene, la Fiat c'ha un buon prodotto, che è una macchina che stanno vendendo, adesso stanno iniziando a capirla, che è una macchina che costa poco ed è qualitativamente, qualità prezzo, è una grandissima macchina, la Fiat tipo, esistono tre allestimenti, poi c'è anche il sub tipo cross eccetera eccetera, e ti posso dire, l'ho provata, c'ho mio cugino che ce l'ha, amici che ce l'hanno, per quello che costa non trovi di meglio di mercato, deve andare a finire nella Dacia per trovare un prodotto con quell'ordine di prezzo, però ti posso dire, la Dacia è un milione di macchina, tutto a qualità costruttiva zero, materiali zero, tutto uno schifo, niente, cioè tu mi dici cosa c'ha di bello la Dacia, niente, perché dice che la costa poco, sì, ma non ti dà niente, tutte date, il Sandero, il SUV nuovo che hanno fatto un pochettino così, un po' meglio, ma zero assoluto, cioè c'ha, cosa c'ha di bello, forse c'ha un vecchio motore Renault abbastanza affidabile, per tutto il resto zero assoluto, ruggida, io non ero anni che non vedevo corrosione perforante, i montanti degli sportelli completamente marci, la macchina non di zona di mare, è zona qua, in città, completamente marci, abbiamo voluto sostituire i montanti delle porte, dove attaccano le cerniere, completamente marci, ma non una volta, anche un'altra volta se l'ho detto, mai, non lo so, è capitato, due macchine, tutti e due lo stesso problema, completamente marci, nella mia erano slincate, in parti strutturali stiamo parlando, mai visto una cosa del genere nel 2022, perché l'abbiamo fatta l'anno scorso, non ho mai visto in tanti anni, ero dagli anni 80, non vedevo una macchina frasica, questa era frasica, e ti posso dire la tipo, se tu la provi, una macchina molto equilibrata, per quello che costa ti dà quello che merita, veramente una bella macchina, o non piacere la linea, infatti hanno fatto tre varianti, hanno fatto la tre volumi, due volumi e due volumi e mezzo, ed è una bella macchina, non posso che parlarne bene, motori sono Fiat, per cui vanno più che bene, niente da eccepire, dentro la qualità dei materiali non sarà eccellente a livello delle tedesche, però come livello di macchine utilitarie gli do ottimi voti. Di nuovo a te Gabri. Sì, ce l'ha Gianni doppio rumbo, la tipo nera, ce l'ha Gianni, mi sembra che quella di Gianni sia il turbo benzina, turbo benzina e gas, benzina e gas, quella, ed è bella, nera, come i cerchi, bella, non... Sì, anche a me piace la tipo, guarda, tipo piace anche a me, perché è una bella macchina familiare, tranquilla, una macchina tranquilla, sereno, e... sì, sono d'accordo, capite che io ho fatto un affare con quella Bravo, io ho fatto un affarone, ma la mia è nuova, se tu la vedi, la mia sembra che sto facendo un concessionario, ho sempre dormito in garage questa macchina, poi io l'ho comprata a 25.000 km, no, e dal 2007 al 2020 al 2021 25.000 km, ma cioè, ma ci pensi, cioè, poi ho fatto fare distribuzione e tutto ed è perfetta, poi la serie è super accessoriata perché è quella con lo clima, piccolo clima bizona, cruise control, vai un color finanza, infatti a volte quando mi vede qualcuno strano prende si spaventa, però lasciamo perdere quello in particolare, infatti quando mi vedono, è già la macchina della finanza che ho comparato, è uguale, guarda la macchina della finanza, forse sono l'unico a parlare quel colore, però non è bello, però è anche la Bravo, una bella macchina ti posso dire, poi non consuma niente, guarda, perfetta, poi 1009 di multigetto, 8 valvole, è il motore migliore che sia uscito. Ah, tu stai parlando di nuova Bravo, non la vecchia Bravo. No, la nuova Bravo, no, la vecchia, no, e capita, no, la nuova Bravo, e beh, certo. Ah no, perché prima abbiamo parlato di macchine prestazionali. La Bravo vecchia, che qualcuno piaceva, la Brava Mari era bruttina, dai, che era un po' fatica, però la Bravo, la versione HGT, le cose, c'aveva un bel motore quello lì. Io avevo visto le prove di resistenza di quel motore, dell'autovalvole 16 valvole. Allora uno sono arrivati a 500.000 km e si sono fermati perché hanno detto ha superato tutti i test di durata, fanno girare i motori a massimo regime 24 ore su 24 sino a crepparli. E quello, l'autovalvole è arrivato a più di 500.000 km, mentre l'altro, il 16 valvole, quello dell'HGT, a 400.000 ha avuto delle incertezze. Però cacchio, stiamo parlando di un motore fatto girare per 24 ore a massimo regime a 7.000 giri, 6.800 giri per 24 ore il motore, proprio una a cremallo, scarico libero tutto quanto. Quello della 1600, no, cos'era, 1600, l'altro era, sì, 1600, è arrivato a più di 500.000 km, l'altro ha fatto 400.000 km, quello più spinto è il 1800, sì. Quello che c'è tu è un gran motore, 1900, cavolo, multijet c'hai. Sì, però dell'ultima Bravo, e non della prima serie, dell'ultima serie della Bravo, quella, l'ultima, no, tu stai dicendo la Bravo 3 porte, no, io sto dicendo l'ultima, la 5 porte, io ho il 1900 valvole multijet. Sì, sì, no, no, ho capito bene. Però siccome abbiamo parlato prima delle macchine vecchie, quelle lì, perché uno critica i motori Fiat, qua, là, io ti sfido a trovare molti motori che facciano i chilometri che fanno i Fiat. C'hanno altri problemi, perché problemi ce ne hanno tanti le macchine Fiat e di altre cose. Però a livello di motori sono assolutamente indistruttibili. C'è il 1003 multijet che l'hanno venduto a tutti Opel, Ford, eccetera. La Toyota gliel'ha sabotato quel motore lì. Quando nella catena di montaggio, non so come abbiamo fatto, hanno buttato delle cose dentro i motori per spaccarli, per far vedere che il motore non era affidabile, e si è scoperto, poi no, hanno insabbiato tutto, perché quando vai in stabilimento e poi scopri che queste rotture da che cosa sono dovute, ti trovi dei pezzi dentro di metallo che non c'hanno niente a che vedere, di mai ripagavano a qualcuno, buttaci dentro i cilindri qualcosa, o buttaci dentro nei cutter, non lo so, e c'era sospettato che fosse la Toyota all'epoca, perché era un motore talmente efficiente, leggero, affidabile, eccetera. Adesso vabbè, lo stanno facendo anche altri, ma qua sono uscito il 1003 multijet, stiamo parlando, quanti anni saranno, forse 12 anni fa, non esisteva niente nella concorrenza, adesso ci sono, li hanno fatti, ma tu quando fai un prodotto in anticipo di 10 anni rispetto agli altri, cavolo, la gente cosa dice? Cavolo, io c'ho un motore 1003 che ha le prestazioni di un 1600, consuma di meno, eccetera, eccetera, con catena di distribuzione anziché a cinghia che fa 400.000 km col motore tranquillamente senza fargli niente, la catena la cambia a 200.000 km, cosa vuoi di più? Eppure qualcuno si è messo a copiarlo, e ti posso dire, motori Fiat non perché tu mi dirai sei nazionali, sono i migliori motori del mondo, non ce n'è. Poi se tu vuoi prestazionali ci sono altre cose, parliamo di motori di uso quotidiano, non arriviamo a cose esagerate, perché sennò a quel punto entriamo con i motori Ferrari, Lamborghini, Maserati, eccetera, eccetera. Parliamo di macchine di uso quotidiano, senza salire di troppa cilindrata, diciamo sino ai 2000-2005. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. I brevetti migliori ce li abbiamo noi, ogni tanto la Fiat, il gruppo Fiat, che adesso vabbè, è tutto, tieni presente che è tutto il gruppo PSA, Citroën e Peugeot, stanno mettendo i motori Fiat, per cui i francesi sono molto nazionalisti e si stanno montando tutti i motori Fiat perché non avevano uguali. La Chrysler, per entrare negli Stati Uniti e superare le normative, ha dovuto acquistare la Fiat a prezzo ridicolo e mettere i motori Fiat negli Stati Uniti, stiamo parlando, per cui di cosa stiamo parlando? Poi, sì, poi questa genere, io adesso non so come sia perché sono un po' fuori dal giro, comunque questa genere, cosa tu intendi General Motor, quella, diciamo questa cosa che hanno fatto, per esempio, il 1300 multijet l'ha montato anche una serie di Opel Corsa, se non sbaglio, o se non mi ricordo male, che l'aveva un amico e aveva il motore 1300, non so se il GDTI, però era il multijet, alla fin fine. Ora mio fratello c'ha BMW 320 la serie 2013, Station, il 100, il 150 cavalli, chissà, o il 167, comunque. Questo signore, diciamo, è amico suocero e gli ha regalato questa, questa appunto 1300 Musti Jet, questa appunto 1300 Musti Jet. Quando vedo mio fratello gli faccio la fotografia, conta chilometri, 637.000 chilometri, 637.000 chilometri aveva queste zatte, queste zatte. Adesso ne avrà di più. Lui li fa italiani, tranquillo, era già chilometrata. La verità, la era un po' rovinata in carrozzeria e l'ha messa a posto, però il motore non gli ha fatto mai niente, è sempre originale. 637.000 km, cambiata la catena, cambiata, fatta una volta la frizione, fatta la frizione, motorino ovviamente cambiato, alternatore, tutte queste cose qua, classico routine di motore così chilometrato, però il monoblocco ha quei chilometri lì, diciamo che è trattata bene, è macchina che va ancora, macchina che va ancora, robe, quindi hanno già ancora molta vita con la macchina davanti. Assolutamente, la mia io sono la multipla 1009 e c'ha 338.000 km, non gli ho mai fatto niente, grazie a Dio facendo le cose, il motore lo seguo io, italiano li faccio io, non consuma niente, gli unici problemi con la macchina sono le sospensioni, che se le mangia davanti, i braccetti, è un difetto di quella macchina, per il resto sono pienamente soddisfatto. Io ho un amico carissimo, una persona, un grande motociclista, una persona che ha 81 anni, anche se ne dimostra 70, se lo vedi, forse non gli dà neanche 70, lui c'ha un BMW Moto K100, ha fatto più di 600.000 km e io sfido a chiunque a fare in moto più di 600.000 km, questo ha girato tutto il mondo, da Capo Nord, Pate, lui si fa 4.000 km per volta quando parte, cussi, senza niente, ma non è uno, questo lo usa tutto l'anno la moto, l'inverno, estate, coso, questo prende e parte da qua, Genova e sale su sino a Norvegia, tutta una dilanda, si ferma naturalmente con le tappe, c'è la figlia che vive in Francia, lui va sempre in moto e ha fatto più di 600.000 km con un BMW K100, il motore è il suo originale. Pigliato una Fredo, Robert. Fredo, quest'uomo sarebbe da scrivere un libro, cosa ha fatto nella vita quest'uomo e cosa fa, perché questo è aviatore, nel senso ha fatto anche atterraggio di emergenza in un campo di pomodori, mi ha raccontato. Paracadutista, sommozzatore, saldatore, sommozzatore, e poi vabbè fa anche altri tipi di lavori dove è un mostro, tappezzeria e cose del genere, ma se tu lo vedi lavorare questo ti dici ma come fa questo ma a questa età a fare tutte queste cose qua, io sono rimasto a bocca, poi quando inizia a raccontare è una mente di racconto da quello che ha fatto nella vita quest'uomo, di tutto e di più, è andato fuori in America, in cose, in Arabia, ha lavorato di tutto e di più, di tutto le, qualunque cosa lui l'ha fatto, la cosa che mi ha colpito che fa il palomaro sommozzatore saldatore, che quello non è a tutti, a parte pilota di aerei, vabbè, di questi superleggeri ce ne sono tanti, però lui ha fatto un atterraggio di emergenza nella campagna di Sorso, era Girelli, gli è mancato il motore, ha dovuto atterrare planando in un campo di gozze, i pomodori, in un orto. Ma Mario si chiama, non per sapere affari tuoi. Cos'è detto? Ma si chiama Mario. No, Giuseppe si chiama, molto conosciuto a Sassari, te lo dirò a voce, quando capita è uno dei primi, diciamo, del campo di Coso, di Platamona, lui insieme a un altro, hanno fatto quel campo, l'hai visto a Platamona di volo, lui insieme a un'altra persona che era tra l'altro mio professore di scuola, grandissimo professore, non posso dire il cognome perché non è bello, però si chiama Giuseppe questo signore ed è uno che ha le palle quadrate. Beh, uno... Caspita, un camuno della terra di emergenza, robe, persone, sono persone di un altro, che vanno un altro tipo di gaddo, si dice a Pucio d'Orra, un altro tipo di gaddo, oioia. È già bello già raccontare quelle cose di caspita, poi quando senti avventure così di persone anziane ti prendo. Va bene Robert, io anch'io domani non devo lavorare, cioè domani mattina devo fare un lavoretto, però non ho orario, quindi, però adesso mi corico un pochino, mi corico un po', che domani mattina la sveglia, io mi alzo sempre presto. Va bene, grazie per questo euro, beh, sempre un piacere, no, lo sai. Ci sentiamo tutte le prossime, poco fa ti stavo caricando, adesso vedo un po' sarà caricato, ti volevo mandare un video con Bennato, ve li ho trovati, mi sono messo, cioè una scheda di memoria a parte, ho detto adesso la metto e gli mando un paio di video, con Bennato, con i Nomadi, con Enrico Ruggeri, adesso vedo se me li ha caricati, quindi mi dici che ci sono pazzi, ciccia dai, di nuovo un piacere Roberto, dai, tutte le prossime, ciao, buonanotte. Di cambio piacere, dai, anche la parte mia, no, no problema, dai, anche io vado a dormire, è già tardino, anche se domani devo dire non mi devo alzare prestissimo, me ne sveglio comunque, in ogni caso, perché io l'abitudine è alzarti presto, anche se sei coricato nel letto, però sei sveglio. Ci sentiamo presto, dai, buon tutto, buonanotte e buona giornata per domani, ciao Gavino e anche eventuali qua amici in ascolto e SWL, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao, buonanotte. Buonanotte dall'ascoltone, ciao. Mica c'era un ascoltone, ciao Giulio, non so se hai sentito la discussione, ma spero di sì, se magari erano interessanti. No, sono appena arrivato da un po', 5 minuti, 10 minuti o di più, stavo guardando un film. Ok, comunque confermo tutto a riguardo di Giuseppe. Ciao, ci sentiamo, ciao Gavino, ciao Roberto, buonanotte. Giulio già lo conosce, dai, è una grande persona. Ciao Giulio, buonanotte. Buonanotte a tutti.